Bugsy, la firma di Levinson, per le antiche scale di Bolognini, e poi H2S di Faenza, il film di Faenza che è stato distrutto dalla magistratura per ragioni politiche implicite, perché non è esplicita, era una favola, ma era pesantissimo il film, ma era bellissimo, e quindi l'hanno distrutto. E poi Mission, quella la devo fare perché se no si arrabbiano se non la faccio. Quindi. Che ne dice di questa festa del cinema di Roma? Beh, mi pare legittimo che Roma abbia questo evento importante. Ma insomma, il cinema è stato fatto a Roma per tanti anni. Per tanti anni vengono anche gli americani a fare il cinema a Roma, a Cecità. Quindi che Roma abbia un festival o festa, mi pare proprio giusto.